Prova un 2-3, prova un 2-3. Sì, sa. Avete presente quando andate a un concerto di quelli, non di quelli seri, quelli che pagate decine o centinaia di euro, quelli che pagate una birra, se la volete prendere, altrimenti se la siete portata da casa meglio ancora, dove c'è, arriva il tizio sul palco e dice sa, sarcazzo direi. Ecco, questo è sa. No, beh, a parte tutto, che cos'è questo? Volevo dire due parole prima di iniziare questa pseudo prototrasmissione, più che altro per spiegarvi che cos'è MDB Summer Radio. La realtà è che tutte le volte che io metto qualche musica da qualche parte nei podcast che realizzo, finisce che qualcuno di voi dice che bello, ancora. E allora in un impeto di ego ho deciso di fregarmene altamente, di creare una sorta di trasmissione molto breve, molto simpatica, come questa che state ascoltando, in cui vi faccio sentire un po' di canzoncine che tendenzialmente piacciono a me. La realtà è che dalla puntata prossima vorrei dare un tema a ogni singolo episodio, in cui in ogni episodio diamo questo tema di partenza e lo svolgo con tante musiche, con tante canzoni. Questo che in realtà è un episodio pilota, più che altro per capire se la cosa ci piace o non ci piace. Diciamo che metterò la musica che mi piace, e non ho iniziato con la sigla perché il primo pezzo che vi metto è un pezzo che io adoro tantissimo. È un pezzo che ho scoperto quasi per caso, perché un amico che conoscevo me l'ha fatto sentire, ed è un pezzo degli Sixth. E sono un gruppo progressive metal, una cosa stranissima, molto complessa. Sono inglesi, che sono stati, hanno fatto essenzialmente due soli album più un album dal vivo. Dicono che si sono riuniti nel 2014, però ancora oggi non si è visto ancora niente di concreto. Quello che fanno è straordinario, eccezionale, è talmente complicato che a volte non capisco cosa stanno facendo, ma lo stanno facendo tutti insieme, per cui qualcosa mi dice che sanno che cosa stanno facendo. Beh, la sigla di questa trasmissione, che si chiama MDB Summer Radio, cioè Morti di Bestemmie Radio d'Estate, però non metteremo i tormentoni estivi, e insomma la sigla di questa trasmissione è proprio questa canzone, che è Scent of the Obscene, signori e signori, i Sick. Purple Six, che secondo me sono dei mostri sacri, quello che suonano e come lo suonano e come lo cantano, e al di là del bene e del male. Dopo la parte introduttiva, che serve essenzialmente per scaldare gli animi, passiamo invece alla prima categoria, la prima canzone di una categoria. La categoria è quella della musica demenziale, quella che fa ridere, quella che prende in giro. Qui ovviamente sarò abbastanza obbligato a mettere su roba se non italiana o abbastanza comprensibile. Beh, diciamo che questa canzone, quella che sto per mettere, è quella di un gruppo che a me fa ridere tantissimo, che si chiama Nanowar of Steel. Sono essenzialmente una cover band parodistica dell'epic metal, essenzialmente più dedicati a gente come i Manowar, da cui ereditano il nome, o i Rhapsody. E proprio da una canzone dei Manowar che si chiama Warriors of the World United viene fuori questo che secondo me è il loro capolavoro, ed è una canzone bellissima e fa ridere, e oltre a far ridere è proprio bella da cantare. Per cui, signore e signori, vi dedico questo pezzo spettacolare che è Giorgio Mastrota dei Nanowar of Steel. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi italiana leader. Come vedete, inizia con la musica, la voce di Giorgio Mastrota, che tutti voi conoscete bene, immagino. E ad ecco il giro di basso che ricorda tantissimo Warriors of the World United, e la parte di batteria è proprio qua, della tu cia tu cia cia tu cia, e la parte di chitarra che arriva, entra così proprio epicamente con un singolo solo accordo, un bicordo. Oh, porco due, sto suonando sto accordo. E inizia il riffettone tipico di un certo heavy metal, un certo epic metal, semplice, quadrato, lineare, ma nello stesso tempo da alzare le mani a gomito, a formare un anello nel cielo, perché questo è il vero metal, il vero metallo. E qui l'altro accordo che rimane a lungo, sia di chitarra che di basso, vai! 18, 10, nelle nocche di Giorgio Mastro! Vedete, questa volta non mi interessa fare rock sopra le canzoni per spiegarvele. Il garzone di Giorgio Mastro, sciamano dello scimano, Giorgio Mastro, Magamano, entrare di rete 4, tu proteggi la città, con forni di Full Color e prodotti di qualità. Giorgio Mastro, cavaliere custode dell'acciaio in oro. Giorgio Mastro, guerriero nordico di pura lana merino. Hanno vento la pressione e la paghi in comoderate. Cosa stai aspettando? Prendi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Se non l'avete visto, guardatevi il video su YouTube di questa roba, perché fa veramente ridere. È talmente trash che appunto si lega benissimo al trash stesso di Giorgio Mastrota. Non che sia una persona trash, però sai, il fatto di fare pubblicità per materassi da 25 anni su Rete 4 è trash di suo. Qui arriva la solo di chitarra, bello pulito, bello cattivo, con un sacco di legati. Io ci parlo sopra, ve l'ho detto, in questa trasmissione io parlerò sopra la musica, perché sì, perché tanto se una canzone vi piace tanto ve la ascoltate, ve la scaricate, perché di sì, perché ci saranno tutti i link alla fine della trasmissione, o che ne so, magari nelle note dell'episodio, così siete obbligati a guardarmele, visto che non le guardate mai. Fino a 12 mesi, oppure con come dei mini rate. La cosa bella è che di Giorgio Mastrota, la cosa che fa più ridere sono i pezzi in cui c'è Giorgio Mastrota, è vero che parla. Senza pensiero, Giorgio Mastrota, cavaliere custode dell'acciaio vino, guerriero nordico di pura Salamerinos, se ne frega. E la paghi incomoderate, cosa stai aspettando? Prendi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Cavaliere custode dell'acciaio in oro, Giorgio Mastrota. Ditemi voi se questo non è un capolavoro. È proprio bella da ascoltare sta roba, indipendentemente dal fatto che parli di Giorgio Mastrota, dell'acciaio inox, del cambio Shimano e di Mondial Casa che ti aspetta. Cazzo, che bella sta roba. Giorgio Mastrota, Vedete, questa è una trasmissione in cui facciamo anche analisi delle canzoni, non me le faccio solo sentire. Perché di sì, perché è giusto che voi capiate perché vi piacciono queste cagate. Così magari con l'analisi vi possono piacere di più, oppure possono anche piacervi. Bene, terminata questa bellissima canzone dei Manowar of Steel, tanto rispetto per voi, passiamo alla parte successiva. La canzone successiva in realtà non ha un genere, essenzialmente l'ho messa dentro perché per me è bellissima e per cui mi sembra ragionevole farvela ascoltare. Questa ve la interrompo molto di meno perché è più delicata, ha senso ascoltarla. Tra l'altro è una delle due canzoni che abbiamo scelto come base per il nostro reel della mia casa di produzione. Ce ne sono due di basi, una che è una canzone molto più allegrotta, più simpatica, che facciamo sentire a tutti i nostri clienti normali. Quando invece abbiamo un cliente che un pochettino potrebbe capirci qualcosa di musica, gli infiliamo dentro sta roba qua perché è una bellissima canzone. A me i Nightwish, che sono quelli che arrivano adesso, che sono un gruppo finlandese, fanno, la definizione è metal symphonic finlandese, perché appunto finlandese è una categoria dello spirito. Sono tutti musicisti maschi tranne la cantante, che ovviamente è femmina. Hanno cambiato tre donne alla voce. Questa, se non sbaglio, che sentirete sarà la penultima cantante. A me fondamentalmente loro non piacciono, però questa canzone è stratosferica, per cui vi lascio con Nemo dei Nightwish. So cosa più particolare. Ho deciso che voglio dedicare una canzone in ogni puntata alla musica dance, alla musica tunza tunza tunza tunza tunza, perché è chiaro che io ascolto heavy metal, sono un metallaro, ho suonato heavy metal, mi è piaciuto comporre heavy metal quando suonavo la chitarra, non ero granché bravo a suonare, però mi piacevano le cose che scrivevo. Poi sarebbe stato bello per me farle suonare a qualcun altro che sarebbe stato capace di suonarle, però vabbè, sono le complicazioni della vita. Allora, dicevo, io ascolto però un po' di tutto, mi piace veramente quasi tutto, tranne l'opera lirica, quella più stramba, e il jazz puro. Anche se sul jazz sto imparando ad apprezzare, sull'opera lirica, se qualcuno me la spiega, magari riesco a assorbirmela di più, però un'opera intera, diciamo che faccio un po' di fatica, poi magari vado anche a teatro a beccarmela, però alla metà del secondo tempo ho dei momenti di allucinazione modello 2001 nello spazio. Allora, dato che questa è la prima puntata, volevo fare una cosa speciale, diciamo che invece di mettere una singola canzone ne metto 5 mixate tra loro, mixate da me, e sono 5 canzoni di quella che secondo me è la vera regina del pop con la P maiuscola, ovvero sia Lady Gaga. Per cui invece di mettervi una singola canzone vi metto il pentateuco di questa donnona, che a dire la verità mi bomberei anche in posizioni poco ortodosse. Signore e signori, Lady Gaga. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. dopo questo capolavoro, credo, spero che abbiate apprezzato lo sforzo di mixarla. In realtà mi sono fatto dare una mano dal software che ho scritto, che si chiama Bitmark X, che serve per trovare i beat, i marker della musica, mette i marker in corrispondenza dei beat della musica in modo che tagliare un po' più veloce. Beh, dopo di questa passiamo invece alla canzone che vi spiego. In essenza praticamente vi faccio sentire una canzoncina e vi spiego di cosa parla, che è una cosa molto complicata, perché bisogna prendere un testo, in questo caso prendiamo un testo in italiano che ci aiuta, e lo svisceriamo un pochettino. Questo perché? Ma perché essenzialmente diciamo che ci piace scoprire. Fondiamo insieme appunto due canzoni, perché metteremo insieme sia la canzone spiegata sia la canzone in italiano. Voglio che in ogni puntata di questa trasmissione ci sia almeno una canzone in italiano, in questo caso appunto due, perché c'è anche la parte parodistica. Perché mi piace l'idea che, insomma, ci sono tante cose belle in italiano che vanno scoperte o riscoperte. In questo caso vi faccio ascoltare una canzone, è una di quelle che ho scoperto per ultime, di un gruppo che ho scoperto qualche anno fa che si chiamano Subsonica, che io credevo fossero molto più ricchi e famosi. In realtà, tra tutto, non è che hanno venduto, secondo me, meno circa 500.000 di copie di dischi, tra tutti i dischi che hanno fatto, che secondo me non è che sono neanche tantissimi. So che loro trombano di brutto i concerti, perché le gruppi di Subsonica sono favorevoli alla sottomissione totale, nel senso, tu sei un Subsonica, submettimi, e mi piace tantissimo questa cosa. Le ho conosciute anch'io, beati Subsonica e chi se li fa. La canzone di oggi si chiama Licantropia, già il nome sta a indicare una tipica componente dei Subsonica, cioè noi facciamo i Subsonica, che è musica un po' così, che devi essere un po' pronto per capirla. La canzone è molto divertente e vi darò una spiegazione, una mia interpretazione del testo, ma partiamo con questo capolavoro che inizia con questo quacco quacco quacco di boh, che non si capisce se è il basso oppure il synth, probabilmente un synth, è un quacco quacco, però va bene, ci piace. E adesso inizia l'arpeggio di chitarra con questo giretto qua, ma è molto bella la canzone, è molto trance, cioè se vi fumate un cannone l'apprezzate anche di più. Inizia. Il tramonto sul discount. È già qui il tramonto sul discount. Al suo picco di poesia. Qui stiamo già a capire che stiamo parlando di una periferia di quelle disagiate, perché se uno trova la poesia nel tramonto sul discount, c'è qualcosa che non va. Diciamo che una Barona al quadrato, un quarto Giaro al cubo, un Bronx in fase normale. Lo fotografo per te. E fotografo il tramonto sul discount. Che non sei mai stata. Questa è la sfiga totale. Cioè, nel senso, tu fotografi una cosa triste. Ora sei nostalgia. E appanni le finestre. È importante, appagni le finestre col respiro, perché essenzialmente lui fa questa foto col suo cellulare sfigato da punti dell'S lunga al tramonto sul discount, e glielo manda sta donna che non è mai stata sua, è una che l'ha data a tutti, e infatti lui la stalkera e lei appunto appanni i vetri col respiro, perché in quel momento si sta bombando qualcun altro. C'è la luna elettrica, va bene. Lui sta sotto un lampione, pensa che sia la luna, va bene. E lui si trasforma col lampione. Si trasforma che cosa? Non si sa. Una persona pericolosa. Desideri e voluttà. Questa la lascio agli fan dei Subsonica. Sempre periferia, vedete? Cioè, nel senso, posti del cazzo. Tu sei nostalgia. Perché non sei mai stata mia. Cioè, ti sto stalkerando. Che appanni le finestre col respiro, intanto qualcuno ti sta bombando da dietro, ma io non lo vedo, vedo solo te, ignuda alla finestra, e ti mando le fotografie e voi mandate, cioè immaginate questo qua che si bomba chiunque, e lui gli manda le fotografie del tramonto, guarda che bella poesia, il tramonto anche dietro il discount, lei, ma va, fanculo, capite che non gliela darà mai, lei non è una gruppi dei Subsonica ovviamente, qui sono, la canzone rallenta un pochettino e fa un poti poti poti. Correrei di sé ed essere parte del buio, ancora correrei invisibile tra siepi incolte, cartelloni e tacchi in controluce, tra motori fermi ad aspettare un giro in paradiso, tra parcheggi, fabbriche e goldoni. Tra fabbriche e goldoni, c'è gente che si bomba nel parcheggio e lascia lì il preservativo usato. Qui nei miei polmoni correrei da fango e pisce fino a farli ritornare buoni. È triste sta canzone, veramente triste. Non tanto perché lui non si bomba questa, ma proprio perché questa immagine di degrado urbano, cioè la periferia, il piscio, la cacca, i preservativi usati. Cioè, veramente è una canzone della sfiga totale globale. A me spiace perché appunto è subsonica, per me trombano di brutto. E raccontare quando trombi tanto la vita degli sfigati è un paradosso un po' delicato. Però la canzone finisce e grazie al cielo non devo andare avanti a spiegarvi delle cagate. Spero che vi sia piaciuta questa spiegazione, ma passiamo al pezzo successivo. Il pezzo successivo in realtà fa parte di un'altra categoria, perché ogni canzone ha una categoria, e questa categoria è la categoria del musical. Io adoro i musical, per cui in ogni trasmissione vi metterò un musical, una canzone di musical. Avrei potuto scegliere tantissime, anche che mi piacciono di più di questa, ma ho scelto proprio questa perché è una di quelle meno diffuse, meno da qui da noi in Italia. Il musical si chiama Wicked ed è stato scritto nel 2003 da Steven Schwartz, un genio. Se la cosa più bella che ha fatto lui secondo me a livello musicale è la colonna sonora del film Il Gobbo di Notre Dame della Disney del 2006, che secondo me è il disco più bello del 2006. È una cosa stratosfericamente bella, ci ha messo dentro l'anima e non ha vinto l'Oscar perché quelli degli Oscar sono delle teste di rapanello. Insomma, questo musical che è partito da a Broadway ed è arrivato anche a Londra, l'ho visto a Londra ed è bellissimo. Ma la cosa interessante e non vi racconto la storia, ve la guardate, andate a beccarvi le cose su Wikipedia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa interessante è stato il cast della prima produzione di a Broadway. Sapete che dopo un po' di anni la gente cambia perché cambia voce, diventano vecchi. Il primo cast aveva tra i due personaggi principali, cioè Elphaba e Glinda, Idina Menzel e Kristin Chenoweth, che magari voi non sapete chi sono, ma secondo me sono due cantanti di musical stratosferiche, bravissime. E questa è la canzone principe. Non è la canzone forse più bella del musical, io preferisco l'introduzione. Però era troppo complessa da mettervi e tra l'altro l'ho già messo in un'altra puntata di Morti di Bestemmie, quella dei bambini Satana, credo. Per cui metto questo che è il singolo, quello che diciamo che ha fatto più successo, e questo è il singolo, è Defying Gravity, che insomma che vi consiglio perché è di una bellezza stratosferica. Magari non riuscite ad apprezzarlo la prima volta, ma la quarta volta che ascolterete questa puntata di Morti di Bestemmie MDB Summer Radio troverete che è una canzone di cui non potrete mai più fare a meno. Signore e signori, rullo di tamburi per Defying Gravity. I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your paws forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. Listen to me. Just say you're sorry. You can still be with the wizard. What you've worked and waited for. You can have all you ever wanted. I know. But I don't want it. No. I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. And you can't pull me down. Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've Glenda, come with me. Think of what we could do together. Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glenda, dreams the way we plan them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. Down. Well, are you coming? I hope you're happy now that you're choosing this. You too. I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. I hope you're Siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata. Se fate i conti con la canzone che sta per arrivare, saranno 7 brani, anche se diciamo che appunto di Lady Gaga ne abbiamo messi 5 per il Pentateuco e non il Pentico o il Tetrico, il Pentateuco, perché appunto se sapete che cos'è il Pentateuco è ancora più divertente questa battuta. Diciamo che sono sempre 7, in ogni puntata ci saranno 7 brani che avranno a che vedere con uno stile, con una storia, con un'idea. In questo caso il brano finale sarà sempre un brano un po' allegrotto, uno di quelli che vi lascia un po' il dolce in bocca. Avete presente quando magari mangiate 18 pesche, 17 sono dolci e l'ultima che mangiate, proprio come dire, ma sì, proprio per finire il pacchetto, è amara, che dici cazzo, mi ha lasciato l'amara in bocca. In questo caso no, io voglio che ogni canzone finale di ogni puntata sia una canzone che vi lascia il dolce in bocca. Questa è una canzone che io ho scoperto quasi per caso e adoro alla follia, anche se non ho idea di cosa dica. Il motivo è semplice, perché è una canzone finlandese, già sono gli altri finlandesi, no, gli altri norvegesi. È la canzone finlandese di una band metal molto particolare, si è formata nel 2009 per quasi per caso. Tendenzialmente c'era il cantante, che era un cantante heavy metal, va a una festa di bambini di suo figlio e c'era un concertino per questi bambini e lui ha detto: ma sarebbe bello far ascoltare i bimbi dell'heavy metal, che cazzo faccio? Faccio delle canzoni heavy metal per bambini. Ha deciso di mettersi una band, si travestono da dinosauri e vanno a suonare di metà per i bambini. Io non capisco cosa dice questa canzone, perché è in finlandese. Il finlandese, se sapete bene, è un incrocio tra il sardo e l'albanese con un accento molto particolare. Non si capisce un cazzo, essenzialmente. Però la canzone è bella e mi dà energia. Ed è una canzone che io ascolto quando vado a fare ginnastica e vi devo dire che pompo di più. Wow, pompo di più, wow, che figata. Detto questo, vi saluto, perché questa è l'ultima canzone di questa puntata e l'ultima canzone di questa prima puntata. Nelle note dell'episodio ci sarà un link alla playlist di questa puntata, così potete ascoltare ascoltarvela direttamente da Spotify. Mi dispiace che linko Spotify e non linko Apple Music, ma a me Apple Music fa cagare, per cui signori e signori vi lascio con gli Evisaurus con Yura Hevarit, canzone stratosferica, ascoltate. È bellissima sta roba, come fa a non piacervi? Non state già ballando? Su, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, potete anche fare ginnastica ritmica, aerobica, altro che musica dance. Che canzone della Madonna, ragazzi, tutto volume, tutto volume, tutto volume. Spaccate le casse, spaccate i diffusori, spaccate il culo a tutti quanti. Ed ecco qua il ritornello, l'epico. Accordi quando il ritornello finisce aprendosi, proprio tira su le pista la follia. Cercate i video su YouTube di questi qua che si vestono proprio modello il pupazzo di Gardaland, cioè sono proprio vestiti di gomma piuma e suonano i metal così. Di chitarra. Molto di metal, molto pop metal, qualcosa appunto di soft metal degli anni, fine anni 80, inizio anni 90. Però ragazzi, sta roba è bellissima. A me mette una pelle di allegria ogni volta che li ascolto, che boh, mi viene voglia già di vivere. Bello, bello, bello, bellissimo. Fine di questa canzone, finisce anche questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Non so quando sarà, non so se sarà, non so di cosa parlerò, cioè oddio, ho in mente 6 o 7 temi, ma devo capire quale fare per prima. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona serata, perché sì, anche se pomeriggio, vi auguro comunque una buona serata. Ciao!